Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Abbiamo più volte raccontato nel corso della trasmissione e in particolare nelle ultime settimane il contributo che tecniche di intelligenza artificiale possono dare in ambito medico e le storie di successo non mancano, ma allo stesso tempo proprio l'ambito medico ci offre la possibilità di riflettere sul ruolo dell'intelligenza artificiale in rapporto all'uomo grazie a una storia di insuccesso. Molti ricorderanno Watson, l'intelligenza artificiale che nel 2011 polverizzò in diretta nazionale i due campioni mondiali di Jeopardy. Jeopardy è un gioco a quiz di abilità linguistica molto sofisticato e molto popolare in America. Addirittura ricordo che questo computer faceva battute di spirito durante la partita. Ecco, da allora IBM ha profuso grandi energie nel tentativo di trasformare Watson in una specie di super dottore, generando molta attesa. Ci si aspettava che questo sarebbe avvenuto in breve tempo e invece l'attesa ancora oggi continua. Questo super dottore non è mai arrivato e anzi la storia di Watson è una storia che ci insegna qualcosa sulla difficoltà di sostituire l'uomo con un'intelligenza artificiale o anche solo affiancarlo efficacemente nel mondo reale. Ne parliamo con Stefano Ferilli, che è professore associato del Dipartimento di Informatica dell'Università di Bari, nonché membro del direttivo dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale, che tra l'altro ringrazio per avermi segnalato questa storia. Buonasera, benvenuto Stefano. Buonasera, buonasera a te e a tutti. Allora, qual era l'ambizione? IBM ha puntato molto sulla possibilità di creare il medico intelligenza artificiale, quindi il sistema intelligenza artificiale che riproducesse le capacità di un medico. Questo perché era almeno idealmente, una naturale evoluzione di quello che era successo con Jeopardy, perché per poter giocare a Jeopardy, che è un gioco un po' strano in cui bisogna... Sì. Per semplificare, trovare la domanda rispetto ad una risposta data, che però, come hai detto tu, a volte coinvolge aspetti di ironia, cioè la domanda non è così diretta. No, no. Aveva la capacità di elaborare grandi quantità di dati e in particolare di dati testuali, che quindi richiedono la capacità di leggere e di capire un testo e di comprendere un testo, compresi aspetti linguistici non ovvi. Quindi era ovvio che questa abilità si potesse pensare di trasporla nella capacità di leggere ed elaborare ed acquisire la conoscenza contenuta in enormi quantità di testi di medicina, articoli, libri. L'idea addirittura poteva essere quella di far acquisire a Watson l'intero corpus di letteratura medica disponibile, certo, così da fare il super dottore che poteva rispondere in pochi secondi a complicatissime questioni di tipo medico relative alle varie diagnosi, ma terapie. C'erano articoli scientifici, ci si aspettava che potesse tenere conto in modo efficace su basi statistiche dell'età, della provenienza geografica, eventuali mutazioni, mettere insieme tutto. Ecco, qualcosa che nessun umano avrebbe potuto fare, perché la nostra capacità chiaramente è molto limitata da questo punto di vista. Ecco, come è andata, che cosa, perché questo è chiaro, invece non ha funzionato. Sì, ci sono insomma dei rapporti che ci fanno capire che nonostante sia stato fatto tantissimo, quindi Watson è sicuramente stato in grado di elaborare grandi quantità di testi, ma è caduto nel momento in cui ha dovuto riprodurre proprio quello che si sperava che facesse meglio, cioè le capacità tipiche di un dottore umano. Quindi non ha fallito tanto nell'acquisizione della conoscenza, ma poi nell'utilizzo di questa conoscenza per fare quello che fanno i dottori umani meglio. Alcuni esempi, per esempio, di punti su cui non si sono avuti i risultati sperati sono il fatto che nel leggere la letteratura un dottore umano a volte riesce a trarre degli spunti su cui poi basare il suo comportamento, le diagnosi e le terapie, anche a volte da aspetti secondari che non sono l'aspetto principale di un articolo, cosa che magari a Watson poteva sfuggire. Così come in altri casi si sperava che potesse essere in grado di leggere enormi quantità di cartelle cliniche di pazienti precedenti per poi poter correlare i casi precedenti specifici con un nuovo caso. E anche qui, sia un po' per il linguaggio molto destrutturato, a volte con abbreviazioni ed altre, insomma, tipologie di tranelli linguistici con cui vengono scritte queste relazioni, che poi costituiscono l'80% della informazione su un paziente, non sono solo numeri che vengono da analisi. E qui invece, per esempio, non è stato in grado, come fanno i dottori, anche da un singolo caso precedente, di poter trarre ispirazione per poter suggerire qualcosa di utile ad un nuovo specifico paziente successivo. E queste sono state cose che hanno fatto venire meno proprio le caratteristiche principali del dottore umano. Ecco. C'è una frase che in uno degli articoli in cui si commenta questa vicenda, riportata di un medico, che dice: i medici non lavorano così. E forse questo effettivamente riassume molto bene poi le problematiche. Ecco, non è che Watson appunto non abbia funzionato in generale, ci sono dei casi in cui è stato applicato con successo. Sì, assolutamente. Infatti, come dicevo prima, non è venuta meno questa capacità che aveva dimostrato anche in Jeopardy, e ricordiamo che Watson è un sistema avanzato che fornisce anche altri tipi di consulenza non medica, legale e di altro tipo. Quindi non è mancato in quello che ci si aspettava normalmente da lui, ma nel modo in cui poi l'avrebbe potuto usare. Per esempio, sembra che nella diagnosi invece abbia grandi potenzialità, però l'IBM magari riteneva che la diagnosi non fosse proprio la cosa più interessante dal punto di vista della commercializzazione di un sistema così avanzato. Così come anche per altre cose che non riguardano solo la lettura, diciamo, ed interpretazione di informazioni testuali, ci sono delle soluzioni. Per esempio, informazioni genetiche, no? Per esempio, nell'individuazione nell'elaborazione di sequenze genetiche da cui trarre informazioni su come gestire nuovi casi, su quello ha avuto sicuramente un successo ed è utilizzato con profitto in molti casi. Ma tutto sommato, quello che lui dà come possibili risposte è comunque qualcosa di utile. Quello che è venuto meno, insomma, è il fatto che potesse veramente rimpiazzare totalmente o fare meglio in assoluto di un medico umano. Ecco, qual è in conclusione la morale della storia? La morale è che l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di sostituirci integralmente, ma è anzi un ottimo strumento con cui collaborare, perché si è visto che molti medici traggono beneficio per poi portarle avanti con le loro idee, degli suggerimenti e delle idee che gli vengono proposte da Watson o da questi sistemi di intelligenza artificiale. Non so se sei d'accordo con me, ma trovo che in generale oggi possiamo dire che questi sistemi di intelligenza artificiale sono molto bravi a dare risposte, ma sono totalmente incapaci di farsi domande, e farsi le domande sì, giuste oggi e farsi le domande giuste è invece spesso cruciale, no? Sì, assolutamente. Questo richiede una capacità di astrazione, che è quello che poi alla fine, volendo riassumere in una frase, manca ancora a questi sistemi. Ecco. Grazie Stefano Ferilli. Grazie a te, grazie a voi. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani e buona serata.